Etimologicamente parlando, il programma, come l'isteria e la paralisi, viene dal greco. È composto da pro, che vuol dire prima, e da una parola riconducibile alla radice di grafo, che vuol dire scrivere, e indica tutto ciò che viene scritto prima. Nella vita politica dell'Atene classica indicava la lista dei problemi destinati ad essere discussi nelle sessioni dell'assemblea dei cittadini, quella che si riuniva sulla Pnice, più o meno quello che noi definiamo un ordine del giorno. Col tempo, naturalmente, il termine ha ampliato il suo spettro semantico, riferendosi così all'elenco degli argomenti che un docente è tenuto a trattare in una data materia, o a quello delle trasmissioni delle informative o di intrattenimento previste da una singola emittente radiofonica o televisiva, poi per metonimia anche la struttura deputata a trasmetterle. O come di questi giorni si tende a ricordare un elenco di provvedimenti che una forza politica o un singolo candidato promettono di realizzare nel caso siano premiati dal voto dei cittadini. Ora, lasciando perdere momentaneamente i problemi della didattica e quelli dei palinsesti radiotelevisivi, ammetterete anche voi che in politica la funzione del programma è un pochino più ambigua, perché in teoria è fondamentale. Chi chiede il voto ai cittadini lo fa in nome dell'impegno a realizzare, se eletto, certi obiettivi. Gli elettori prendono nota, ci pensano su, stabiliscono che questo obiettivo a loro va bene e quest'altro no, e si regolano di conseguenza. Chi ha il programma migliore, o almeno quello che fa appello al maggior numero di esigenze popolari, vince. L'altro si gratta. Ma in pratica sappiamo tutti che le cose vanno un po' diversamente, e non solo perché è buona norma vagliare anche la credibilità di chi in ultima analisi, prima del voto, ti fa solo delle promesse. A prometterti la luna, a prometterti un forte sviluppo economico, un milione di posti di lavoro, una sostanziale riduzione delle tasse, l'ingresso in Europa, la soluzione al problema del traffico, la razionale utilizzazione delle aree dismesse e la nuova sede della Scala, sono bravi tutti. I cittadini lo sanno e sono disposti a fare un po' di tara. Nel programma di 4 anni fa del buon Formentini, tanto per fare un esempio libero dalla par condicio, c'era persino la riapertura dei Navigli, per ridare a Milano letterale il suo aspetto di città d'acque. Naturalmente non ne ha fatto assolutamente nulla e nessuno che io sappia lo ha rimproverato. E tutto sommato hanno fatto bene, perché di cose da rimproverargli ce n'erano ben altre, e il fatto che qualcuno oggi abbia bisogno dei suoi voti non dovrebbe far scordare che razza di disastro la sua amministrazione è stata per Milano. Ma anche prescindendo da questo, il vero problema è che i programmi di questi tempi si assomigliano tutti. Avendo deciso di fare a meno delle opzioni ideali, i problemi si riconducono tutti a parole, a questioni di efficienza, di organizzazione, di funzionalità, e quelle più o meno si esprimono sempre nei medesimi termini. Le promesse elettorali possibili, oggi come oggi, sono desolatamente univoche. A nessuno verrebbe in mente di promettere ai potenziali elettori la recessione economica, il licenziamento in massa, gli aumenti fiscali e tariffari e la ferma intenzione di non far nulla contro la criminalità dilagante e di dar via libera alla speculazione edilizia. Magari uno è convinto che aumentare le tasse o dar via libera alla speculazione sono cose assolutamente indispensabili, ma non lo può dire. Certi temi sono strutturati ideologicamente in maniera tale che non è possibile dichiarare le proprie intenzioni in merito altro che in una maniera. E di fronte a due o più elenchi di promesse sostanzialmente simili, ai cittadini verrebbe voglia di acquisire qualche altro elemento in base a cui scegliere, di apprendere qualcosa di preciso sugli interessi che i contendenti rappresentano, sulle alleanze che intendono stringere, sui compromessi che sono disposti ad accettare, sui livelli di mediazione a cui pensano di spingersi, cose così. E quando si sentono rispondere, come capita in questi giorni nella nostra bella città, che il candidato tale vuole essere giudicato o votato soltanto in nome del programma che presenta, la voglia di mandarlo, come si dice, a fare un bagno è piuttosto intensa. Perché in politica, lo sappiamo tutti, non è solo questione di programma, è anche una capacità di rappresentare gruppi sociali, e visto che i gruppi sociali non hanno proprio tutti gli stessi obiettivi e le stesse speranze, non sono proprio tutti omogeneamente schierati dietro un interesse generale che va tutto definito, è una questione di schieramenti. E a volte capita che dietro il richiamo ai programmi ci sia proprio la volontà di non schierarsi, o di non dichiarare con chi ci si è schierati. Era una tecnica, sempre per fare un esempio che non offenda oggi nessuno, in cui ai tempi della Prima Repubblica, vi ricordate la Prima Repubblica, eccellevano gli uomini del vecchio Partito Repubblicano, ricordate il Partito Repubblicano di Lamalfa, quello, il senior, che ogni volta che gli chiedevano con chi stavano, rispondevano che a loro interessavano solo i programmi, perché non ci tenevano a dire che nulla o nessuno poi li avrebbe schiodati dall'alleanza con la Democrazia Cristiana, come in effetti succedeva. E adesso il Partito Repubblicano non c'è più o quasi, e c'è la par condicio, e in alcune importanti città, compreso la nostra, incombe il ballottaggio, in cui i programmi sono doverosamente intercambiabili e di schieramenti non bisogna parlare. E qualche candidato probabilmente pensa che tanto da che parte sta lui lo si sappia benissimo, e probabilmente ha ragione, peccato che è il candidato che a noi non interessa affatto. E gli altri sono più incerti, e magari sono proprio convinti di riuscire a farsi eleggere in nome delle belle promesse che ci fanno, senza prendersi il disturbo di fare una scelta netta che sia una. E chissà se un giorno o l'altro qualcuno verrà in mente che quello di cui ha bisogno la nostra malcerta democrazia è soprattutto una dose maggiore di consapevolezza in vista della decisione comune, che, per farla meno difficile, si potrebbe anche dire un po' più di sincerità.